Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Riprendiamo stasera la conversazione con Francesca Traclò. Bentornata Traclò. Buonasera a tutti. Direttrice della Fondazione Rosselli, che è un'importante fondazione romana attiva appunto nel campo della ricerca nel settore della cultura. Ieri abbiamo parlato di Territorio e Cultura, che è una piattaforma informatica, un sistema informativo geografico sviluppato appunto dalla Fondazione Rosselli, in grado di integrare tutta una serie di informazioni relative all'offerta culturale su un dato territorio, in modo da un lato di favorire l'incontro tra domanda e offerta di attività culturali e dall'altro di fornire alla pubblica amministrazione strumenti avanzati per verificare l'efficacia delle politiche culturali e anche pianificare gli investimenti in cultura. Dunque, Traclò, quali sono le difficoltà che avete incontrato nello sviluppare questo progetto? Perché, per esempio, mi viene in mente che il Lazio ha fatto un dataset, noi ce ne siamo occupati, il dataset completo dei beni culturali. Com'erano questi strumenti che vi siete trovati a disposizione? Beh, gli open data, seppure sono assolutamente utili, perché ovviamente meglio di niente. Hanno l'opportunità di accedere, pur tuttavia è stato necessario fare tutto un lavoro di ripulitura e spesso anche di localizzazione fisica importante, e quindi non sono così immediatamente utilizzabili. E questa è una cosa che si sente dire spesso, e lei non è la prima, insomma, che lamenta questo. Sarebbe interessante, secondo me, come potrebbe essere utile in questo momento, fare una riflessione insieme a chi potrebbe utilizzarli, per capire anche per l'amministrazione, per capire come meglio erogarli questi open data, perché poi, come sempre, tutto dipende dalle possibilità di utilizzo che se ne hanno. E siccome noi abbiamo cercato di utilizzare gli open data in maniera georeferenziata, appunto per leggerli poi sul territorio, e questo è indubbio diventa un elemento per il sistema di crescita, no? Perché poi tutti quanti lo possiamo leggere sul territorio, quindi lo può leggere il teatro, lo può leggere l'associazione culturale, lo può leggere il comune. Allora, questo sforzo, devo dire, può essere veramente compiuto con poco, anche perché se no si rischia continuamente di produrre censimenti e di replicare attività inutili. Ma lei trova che il mondo della cultura sia ricettivo rispetto a queste novità potenziali? Secondo me ancora molto poco, nel senso che ancora io credo che l'onda lunga della crisi si sia vista sui volumi di affari, cioè nel senso che i volumi di affari della cultura, nonché i finanziamenti pubblici, si sono sensibilmente ridotti. Certo. Ma questo, dal mio punto di vista, non ha determinato un cambiamento di paradigma e principalmente un'innovazione profonda nel settore culturale, tale per cui oggi possiamo parlare di un settore culturale rinnovato. Come è avvenuto in tanti settori, lei dice, dell'economia. Ecco, ma perché? La maggior parte gli altri se no morivano, gli è andato bene morire, non ho capito. Perché? Io credo che ci sia stato un errore da un punto di vista pubblico, perché il settore della cultura in Italia è sempre stato un settore profondamente assistito. Nel momento in cui come si toglie il biberon al bambino, si fa uno svezzamento in maniera progressiva, invece lì gli si è tolti il biberon in maniera repentina, senza creare le condizioni perché il settore culturale potesse crescere. E quindi ci accontentiamo di guadagnare di meno, però continuiamo a fare le stesse cose. E questo, secondo me, è il dramma, perché il settore culturale ha necessità di trasformarsi in un'industria culturale, quindi c'è la necessità di crescere nelle competenze e di crescere anche nelle capacità di integrazione con tutti i settori della creatività. E quindi gli strumenti quali sono? Perché senza soldi non so io comunque se basta l'informatica. Gli strumenti sono vari, nel senso ci sono, allora, da un punto di vista delle amministrazioni locali, quello che sarebbe utile è trovare dei meccanismi, per esempio, di fruizione degli spazi pubblici completamente diversi, ovvero uno spazio da dare in concessione perché in questi spazi possano creare contenuti. Questo lo dicono tutti quelli del settore culturale ed è molto vero. Per l'amministrazione centrale, invece, quello su cui secondo me vale la pena riflettere è su come facilitare lo start-up di imprese, magari giovani, di tecnologiche, che possano essere un trade-in-on fra la tecnologia, che ormai è andata molto avanti, e la cultura. Questo significa, non lo so, vogliamo defiscalizzare, ecco, le imprese nascenti per 3 anni? Per esempio. Per esempio, può essere un'ipotesi, non lo so, ma si può fare veramente molto su questo. Grazie, grazie Francesca Traclò. Grazie a lei, di vederla. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.